volevo parlarvi di questo libro. Io ho letto Vergine giurata qualche anno fa e mi ha emozionata. La scrittrice l'ha scritto in modo molto delicato e molto leggero, non è patetica, non è pesante, però il libro mi ha comunque fatto arrabbiare e mi ha anche fatto piangere, mi ha proprio emozionata. Il libro narra la storia di Scusa Hannah. Vale, stai Sì? registrando Giulietta? Stai registrando? Sì. Giulietta? Sì. Ok, perfetto, scusate. Il libro narra la storia di Anna, che è una ragazza che è nata e cresciuta sulle montagne dell'Albania, un paesino tra l'Albania e il Kosovo. Lei è cresciuta negli anni 80, fine anni 80, in un'Albania dove c'era un regime che purtroppo ha bandito la religione. La sua mamma le ha parlato di un dio, ma era un dio bandito. Loro pregavano di nascosto. Questo per farvi capire proprio anche il tipo di società in cui è cresciuta. Anna è una ragazza come tante, ama scrivere, ama leggere, ama proprio scrivere poesie, è proprio nel suo mondo di emozioni. Lei cresce in questo paesino giocando per le strade, giocando con gli amichetti del paese, finché poi da grande va in università e va a Tirana, quindi in una città. Lascia le montagne per vivere proprio una vita di città. Quindi trascorre il tempo con le sue compagne di scuola, trascorre il tempo anche nei bar, chiacchierando tra una cioccolata e un caffè. Impara anche le emozioni dell'amore. Non è indifferente agli sguardi dei ragazzi, si emoziona quando incrocia lo sguardo di un uomo. Succede purtroppo che rimane sola, i suoi genitori non ci sono più. Cresce seguita anche da una coppia di zii, la zia poi muore e rimane solo lo zio, quindi lei è costretta dall'educazione, dalla morale ricevuta, a ritornare sulle montagne per accudire lo zio, che è ammalato gravemente. Lo deve accompagnare alla morte. Questo zio però comunque si sente responsabile di Anna, di questa ragazza, e quindi le combina un matrimonio. Purtroppo funziona così sulle montagne tra il Kosovo e l'Albania. Anna però non vuole questo matrimonio combinato, non vuole finire la sua vita, diciamo, in una famiglia facendo da serva a un uomo. Lei voleva proprio, non sognava di diventare madre, non sognava di diventare moglie, sognava di diventare una scrittrice, voleva proprio stare tra i libri. I suoi amici, i suoi amori erano i libri. Purtroppo però, andando avanti e indietro per cercare i farmaci per lo zio, si rende conto che da donna, da sola, viaggiando per le strade è pericoloso. Viene importunata, lei si difende coraggiosamente e con orgoglio, ma comunque la colpa è sua. Perché? Perché è andata da sola, di sera, senza un uomo che l'accompagnasse. Decide così di diventare un uomo, di cambiare il suo nome da Anna a Mark, perché così almeno tutti la rispettano, perché così almeno può fare quello che vuole, perché così almeno è tranquilla e sicura. È facile, deve solo cambiare il suo nome, deve solo cambiare i capelli, si taglia i capelli, deve solo cambiare i vestiti, non è più femminile. Impara a camminare come un uomo e fa i lavori che fanno gli uomini. Già, però anche le donne facevano quei lavori, cioè badavano agli animali, badavano alla casa, badavano ai campi. Anche le donne lo facevano, però l'uomo viene più rispettato. O meglio, lei lo faceva per aiutare lo zio, andava nei campi e curava gli animali. Perché comunque la donna, la vita della donna in quei posti era molto dura anche per i lavori che doveva fare. Invece l'uomo si alzava la mattina, aveva già tutto pronto, colazione, casa perfetta. e usciva per andare nei campi o tagliare la legna. Anna comunque così riesce a fare questi lavori, riesce a costruirsi un corpo maschile abbastanza muscoloso, perché comunque i lavori nei campi sono duri. Diventa un taglialegna, impara a usare il fucile, impara a guidare un camion, guadagna, quindi è indipendente. Il libro va avanti raccontando la storia di Anna che fa la vita da Mark e va avanti tranquillamente. Sembra normale, sembra che sia una situazione che le donne possono accettare. In effetti nel paese tutti sanno che Anna è una ragazza, l'hanno vista giocare per le strade, l'hanno vista andare a scuola, però la chiamano Mark, però l'aspettano nel bar alla fine della giornata, dove fuma, dove beve, come un uomo. C'è un passo molto, molto importante nel libro, dove nel 2001, quando ci sono state il disastro delle Torri Gemelle, lei era nel bar con gli uomini e gli uomini raccontavano, parlavano di questo evento in modo freddo, distaccato, politico. Lei voleva scappare da lì e andare nel locale dove si ritrovavano le donne per poter reagire a questo bruttissimo evento. In modo emotivo, voleva scoppiare a piangere, voleva penetrare nel locale delle donne come gli aerei hanno penetrato quei grattacieli. Usa proprio queste parole. E voleva proprio esprimere la sua emozione, voleva proprio scoppiare a piangere. Invece ha dovuto reagire come un uomo. E questo mi aveva proprio emozionato leggendo il libro. Quindi Anna continua per 14 anni la vita da uomo. Viene una ragazza a trovarla, una sua amica di università, e lei non riesce a lasciarsi andare, a chiacchierare come facevano quando erano in università insieme, a passare le notti a chiacchierare, sì, a bere, a fumare come fanno gli uomini, però proprio a stare insieme, a scambiarsi le confidenze, non riusciva più. Era così entrata nel personaggio maschile che non riusciva più neanche a fare quello che faceva quando era una ragazza. Anni dopo, dopo 14 anni, sua cugina che viveva negli Stati Uniti, perché per fuggire da queste realtà bisogna proprio uscire da quel paese, la invita a vivere con loro. Le dice: non puoi vivere così, non puoi buttare via la tua vita, non puoi rinnegare la tua femminilità, scappa da quel paese, vai via. E lei no, non vuole, perché comunque ha fatto una scelta, ha fatto un giuramento, il giuramento di essere una vergine giurata, il giuramento di non conoscere mai un uomo, il giuramento di essere un uomo. Poi però, meno male, capisce che dopo tutti quegli anni comunque la vita lì non le dà niente e riesce finalmente ad andare negli Stati Uniti, dove appena atterra il funzionario dell'aeroporto le dà il benvenuto e le dice: benvenuta in America, signora, perché comunque sui documenti il suo nome era Hannah e quindi si sente proprio dare il benvenuto come signora, come donna. Ma lei non riesce comunque ad accettarsi come donna. La cugina le dice: comincia dall'abbigliamento, è più facile. Ma lei non riesce neanche a comprarsi uno specchio. Ci prova, compra uno specchio, ma deve cambiarsi, deve spogliarsi al buio, perché non riesce a guardare il suo corpo femminile. In Albania era disdicevole guardare il proprio corpo, ma lì è in un paese libero, ci vuole tanto tempo. Infatti la cugina le dice: è facile, e lei invece dice: no, non puoi chiedere alla mia anima di cambiare così repentinamente. Io mi chiedo come è stato possibile diventare uomo in modo così facile e ritornare a essere donna in modo così difficile. Evidentemente Io non mi so dare una risposta, però comunque il libro mi ha veramente emozionato proprio per questo argomento. In America ha una nipote, un'adolescente, che la tempesta di domande e le dice: ma caspita, ma come hai potuto fare una cosa del genere? Perché comunque una donna qui può fare quello che vuole. Tu potevi fare lo stesso lavoro che facevi quando eri uomo, anche se fossi rimasta donna. E lei le risponde: no, là c'erano le montagne. Le montagne hanno occhi, hanno orecchi, le montagne ti giudicano, le montagne sanno cosa fai. È particolare questo libro, perché non è patetico, ma da queste frasi si capisce proprio il sentimento di questa ragazza. Si sentiva proprio giudicata, costretta dalle montagne, dalle montagne che per noi sono la natura, sono la dea, sono le amiche, sono il nostro interiore. Lì le montagne erano un bagaglio culturale di 400 anni prima, incatenate in quelle montagne, in quel posto. Faceva proprio venire brividi. Non vi ho parlato della scrittrice. La scrittrice Elvira Donés, una donna albanese, che ha voluto mettere per iscritto questa testimonianza di una storia vera, perché comunque per 400 anni le donne hanno subito questa, come chiamarla, questa legge. È una legge, la legge del canone, una legge orale, non scritta, tramandata dai padri, dai nonni, dagli uomini importanti di quella società. Non c'è una testimonianza di una donna che poi ha rotto questo giuramento. Probabilmente nessuna lo ha mai rotto. Perché la pena era essere bruciate vive. Non ci sono testimonianze che sia successo questo. In questo libro sembra proprio che per poter uscire, per poter violare questo, rompere questo giuramento, devi proprio andartene. Lei negli Stati Uniti cerca di incontrare un uomo per poter essere aiutata a riscoprire la sua femminilità, ma anche con quest'uomo è molto molto difficile. Non riesce a sentirsi donna. E quindi il libro è molto bello proprio per questo, perché noi donne non riusciamo proprio a capire com'è possibile. Noi sentiamo anche le mestruazioni. In questo libro non si parla di mestruazioni, ma nelle testimonianze che cercavo in YouTube di vergini giurate, raccontavano che per loro era un impedimento, un ostacolo, una scocciatura. E invece per noi la mestruazione è un sentire il nostro corpo, è un sentirlo anche in base alla luna. Niente, per loro. Loro queste cose non le sentivano, le rinnegavano, probabilmente non si ascoltavano proprio. Contemporaneamente alla lettura di questo libro mi è capitato di andare in biblioteca e prendere i DVD della serie Vikings, dove c'erano le Shield Maiden, lo scudo di vergini, che erano delle guerriere molto belle, molto coraggiose, belle non intendo solo nel senso fisico ed estetico, belle intendo proprio belle perché sentivano la loro natura di donne, di guerriere non perché volevano fare un lavoro maschile, guerriere perché sentivano proprio la missione di usare la propria forza, il proprio corpo per combattere, per difendere o per attaccare. Parliamo di popoli antichi, ma erano così belle e orgogliose della propria struttura fisica che adornavano il loro corpo con tatuaggi, avevano, va bene, le rune che si tatuavano sul corpo per richiamare le energie. E quindi c'era proprio questa differenza. Vergine, le Shield Maiden, scudo di vergini, ma non vergini fisicamente, vergini nel senso di energia pura, vergini nel senso di non contaminate dal pensiero altrui o dall'educazione o dalla morale altrui. Vergini perché pure ascoltavano il loro corpo, ascoltavano la loro pancia, ascoltavano il loro essere. E questo mi ha fatto davvero pensare a quanto siamo fortunate ad essere nate e cresciute in un paese libero. E soprattutto a quanto sono fortunata di avere conosciuto il femminino. Concluderei così. Grazie. Vorrei aggiungere alcune cose che ho scoperto. Io conosco, ho letto, ho visto diversi video sulla storia delle Bernesh, le vergini giurate albanesi, tempo fa. E ci sono dei dettagli importanti, interessanti, che vale la pena di menzionare. Le donne di quel luogo, quando si sposavano, sapevano esattamente che fine avrebbero fatto. Cioè, finivano a diventare praticamente bestie da soma e da riproduzione. Dovevano essere sottomesse, i mariti potevano picchiarle. E addirittura in uno di questi documentari che ho visto si vedeva il padre della sposa che nel consegnare la figlia al futuro marito consegnava al ragazzo anche un proiettile e in questo modo dava a questo futuro marito il nulla osta per sparare alla ragazza qualora non avesse obbedito, qualora non si fosse comportata da moglie modello. Quindi il destino di queste ragazze era un destino triste. Venivano date in sposa ovviamente a chi veniva scelto dal genitore, dal padre. È molto simile a quello che succedeva alle ragazze nel Medioevo, che per evitare di finire spose ragazzine andavano in convento, perché era l'unico modo che avevano per poter essere libere, per poter studiare, per poter essere protette dalla violenza domestica. Questa del proiettile è una cosa importante che ci fa veramente capire perché una ragazza, per poter scampare a questo destino, decidesse di diventare vergine giurata, Burnish. Il diventare Burnish non era semplicemente un dichiararsi uomo e basta, oggi in poi sono un uomo, era un vero e proprio, è tuttora un vero e proprio rito, perché ce ne sono ancora di queste donne. È una cerimonia magica perché queste ragazze stanno in un cerchio di maschi, cioè tutti gli uomini del paese sono riuniti in cerchio intorno alla ragazza e la osservano mentre le vengono tagliati i capelli in pubblico. Quindi cioè, questo del taglio dei capelli in pubblico, immaginate, ha una valenza magica pazzesca, è proprio una programmazione alla limitazione, perché i capelli sono simbolo della seduttività ma anche della forza. Inoltre devono dichiarare che da quel momento in poi rimarranno vergini, cioè queste donne che diventano uomini non possono accoppiarsi né con donne né con uomini, perché se si accoppiano con uomini possono restare incinte, quindi non possono più essere considerate uomini a loro volta, nonostante tutto il paese lo sappia. E se stanno con donne passano per lesbiche nonostante siano considerate uomini, quindi devono rimanere vergini per tutta la vita, infatti vergini giurate si dice, e dichiarano questa loro volontà in una cerimonia di fronte al centro di un cerchio di tutti i maschi del paese. Quindi discutendo, accompagnando Vale in questa sua tesina, si diceva l'altro giorno che probabilmente queste ragazze fanno fatica poi a tornare donne, perché c'è stata una cerimonia esoterica fortissima che le ha trasformate in uomini. Quindi per poter tornare donne dovrebbero quantomeno fare una controcerimonia, una contromagia, cioè uscire da questo stato non solamente con la mente, no? Decido, cambio il vestito, ci vuole una controcerimonia che sia ugualmente forte a quella che loro hanno sopportato quando si sono giurate vergini. Però questo era l'unico modo che spesso avevano per scampare alle botte, per scampare alla sottomissione, no? Quindi erano perché sarebbero state rispettate come maschie, sarebbero state libere, indipendenti, potevano usare il fucile, potevano andare a caccia e nessuno aveva il diritto di pestarle o di mancare loro di rispetto perché ufficialmente erano uomini. Era l'unico modo che avevano per poter essere rispettate. Spesso non avevano scelta perché vivevano in mezzo alla violenza. L'Albania oltretutto per metà è un paese islamico. Una cosa mi ha scioccata. Non so come mi è venuto in mente, e concludo poi, mi è venuto in mente di aprire Wikipedia sulla parola Burnishing. Io non guardo mai Wikipedia perché veramente è un organo assolutamente di parte, patriarcale, mainstream, non fa proprio testo. E chi di voi ha fatto le tesine sa che io dico sempre non usate Wikipedia come fonte perché è inaccettabile. Non so come mai mi è venuto in mente di aprirlo. E ho visto una cosa che mi ha dato proprio la dimostrazione di come le informazioni siano alterate, anche quelle che vengono riferite a noi, perché in Wikipedia le cause che venivano attribuite a questa decisione di farsi vergini giurate erano o la mancanza di un erede maschile, quindi la necessità per poter ereditare di diventare maschio, oppure che la ragazza fosse lesbica. Cioè non veniva e non viene minimamente preso in considerazione che è una maniera per scampare ad una vita d'inferno in un regime patriarcale impossibile. Questo Wikipedia non lo menziona, cioè non dice che le ragazze cercano rifugio lì come nel Medioevo lo cercavano nei monasteri, oppure quell'altro fenomeno che abbiamo visto, in questo momento mi sfugge il nome, quello di Margherita Porete e le altre donne che andavano a vivere tutte insieme nelle case. Beghinaggio.